se ci sono poi domande. Se avete domande per chiunque di noi, volentieri. Io volevo chiedere, se avete avuto difficoltà nell'introdurre questo progetto di meditazione rispetto a quelle figure legate alla Chiesa Cattolica, per me al carcere Don Bosco di Pisa, che io conosco abbastanza bene, faccio la volontaria, sono molto presenti, insomma, e mi domandavo appunto, ecco, siccome oggi si parlava dell'eventualità di trovare volontari che possano condurre questo progetto a Pisa, come la prenderebbero? Volevo capire se nella vostra esperienza siete stati ben accolti, ci sono state delle resistenze, perché a Pisa c'era una suora che, insomma, un po' tutto il carcere diventa poi una questione di potere, diciamo, anche in alcune figure che non dovrebbero avere niente a che fare con il potere, le gerarchie. Sì. Io ero l'ultimo anno che ho fatto a Massa, ero, davo una mano a una suora, voleva solo me, ed ero l'unico buddista in tutto il carcere. Era strano, era una cosa allucinante, voleva solo me. Beh, diciamo che il dubbio che hai tu è lo stesso dubbio che avevo anch'io quando all'inizio mi fu passato il progetto. Mi feci la stessa domanda, nel senso che provai a pensare innanzitutto al perché la meditazione in carcere, e già ci ragionai un po' su questa cosa, e poi mi fece ragionare anche i possibili ostacoli che avrei potuto incontrare, non ultimo resistenze. Io non pensavo per forza, ci ho pensato anche all'ostacolo cattolico, ma anche alle resistenze culturali, alle resistenze di vario genere che si possono incontrare nel proporre un'iniziativa di questo tipo. Mi sono dovuto ricredere, questo lo dico davvero con grande gioia, perché vuol dire che il lavoro che i nostri maestri fanno in giro per il mondo tutti i giorni di tutto l'anno porta a questo risultato, cioè che se io parlo e propongo un progetto che nasce nel mondo buddista, le persone lo associano a un'idea di benessere, lo associano a un'idea di beneficio, lo associano a un'idea di equilibrio per la persona. E questo non è certo grazie a noi, ma grazie appunto ai nostri maestri, primo fra tutti Sua Santità, che ogni giorno rilancia nel mondo continuamente questa sua immagine e che continua a credere, a investire, a promuovere iniziative dove figure religiose, scientifiche, di varie culture e così via possano mettersi insieme e fare qualcosa. Quindi in realtà non ho mai trovato un carcere dove mi è stato risposto no, non ci interessa. Mi ha sorpreso di averne trovati alcuni in cui non c'era spazio o non c'era tempo, e questa è una bella cosa, perché ho pensato, ok, non entriamo noi, però vuol dire che hanno già un sacco di cose da fare e va benissimo, ci entreremo un'altra volta. Però in generale l'accoglienza nei nostri confronti è sempre stata positiva fino ad oggi, quindi non ho mai, per fortuna finora non ho mai esperito una situazione così. Anzi, per esempio a San Vittore ho chiacchierato numerose volte con Don Alberto, giusto? Con Don Alberto, che è il prete che si occupa del carcere, e quando siamo andati con un lama la prima volta c'è stato un bellissimo dialogo fra loro e si sono regalati un libro a vicenda. Quindi diciamo, se noi, come dicevo prima, no? Se noi cerchiamo di non insistere, di non puntare il dito sulle differenze, ecco che immediatamente i punti in comune si trovano, soprattutto in un ambiente dove c'è bisogno davvero di mettersi in discussione. Quindi poi nascono queste sinergie meravigliose, ripeto, grazie ai nostri maestri che tutti i giorni promuovono questa immagine. Quindi direi per ora no, se poi dopo a Pisa succede qualcos'altro faccio canzone. Prego. Io sono volontaria al carcere di Bollate, che è il terzo carcere di Milano di cui parlava prima Michela, che è una casa circondariale, che è una casa di reclusione, quindi con detenuti stabili per un periodo relativamente lungo. Rispetto a quello che chiedevi tu adesso, è importante, una domanda che davvero ci siamo posti tante volte, come saremmo stati accolti dal potere cattolico, no? Che peraltro fa delle cose fantastiche all'interno del carcere, meno male che c'è. Ne parlavamo anche in questi giorni. Credo che una grossa differenza che è anche un po' un nostro valore aggiunto, è legato al fatto che, differentemente da rappresentanti di altre religioni che troviamo in carcere, da noi ci sono cattolici, evangelisti, testimoni di Geova, islamici, siamo gli unici che non richiedono una professione di fede, siamo gli unici che non richiedono un'adesione a una struttura religiosa, ritualistica, fideistica, ma che lavorano su un piano di tipo spirituale e quindi sulla stabilità della mente, sulla saggezza del cuore. Questo io credo che ci mette in una posizione molto favorita. Non siamo pericolosi, non siamo avvertiti come pericolosi, perlomeno questa nella realtà carceraria che vivo io. I rappresentanti delle altre religioni richiedono e fanno molto proselitismo e richiedono anche delle adesioni molto, molto severe, perlomeno per quello che io ho potuto vedere. Il fatto che noi, appunto, richiamati ai valori di Sua Santità, come citava prima Alessandro, abbiamo una modalità molto più aperta, siamo molto più interreligiosi, al di là delle religioni, come dice il Dalai Lama. Nei miei gruppi ci sono parecchi cattolici super praticanti che recitano il rosario tutti i giorni, che vanno a messa tutti i giorni, no? E che vengono di corsa a praticare i lavori di meditazione e di consapevolezza che io porto avanti con grande gioia e con grande scambio anche di tipo culturale. Per cui, proprio perché siamo sopra le religioni, al di là delle religioni, questo è un conflitto che non si crea e io credo che non si dovrebbe creare. Sì, dipende molto da come il progetto viene presentato, e viene presentato appunto, come diceva Grazia, non come un percorso di conversione, ma semplicemente come un'esposizione di principi che noi riteniamo possano far bene. E poi i partecipanti sono completamente liberi di sperimentare questi principi, cioè se trovano che effettivamente li fanno bene, possono seguirli, se trovano che non li fanno bene, sono liberissimi di non applicarli. Queste sono parole ancora che risalgono al Buddha e che il Dalai Lama continua a ripetere. Vedete voi, sperimentando quello che io vi dico, che io ve lo dico perché credo che vi possano far bene, però se dall'esperienza vostra vedete che questo non è vero, non trattate più, non applicate questi principi per niente, tenetevi quelli cui siete già detti ora. E io sono pure un volontario nelle carceri. Le tre detenute che frequentano più spesso il corso che tengo io sono tutte e tre molto cattoliche e mi hanno detto più volte che loro trovano un grande sollievo nella preghiera, la preghiera cristiana. Io ho detto: benissimo, se vi è di beneficio, se trovate questo sollievo, tenetevela ben cara la preghiera e continuate a praticarla, perché quello che a noi interessa è che voi stiate bene, possibilmente meglio, non certo che voi lasciate qualche cosa che sentite che vi fa bene per passare a qualcos'altro che magari può essere meno efficace. Prego. Innanzitutto ringraziarvi per questa conferenza, che comunque parlare di responsabilità sociale credo che ai primi che arricchisce questo progetto da noi sicuramente. Grazie. Come seconda cosa, casualità, io il weekend scorso avevo parlato appunto di Thich Nhat Hanh nel ritiro che fa dei 21 giorni, dove aveva parlato appunto di come usare, diciamo, loro facevano, prendevano a due carcerati per volta e lo portavano al centro buddista, no? E da lì li facevano lavorare. E questo fra parentesi. La domanda mia è: una persona laica che ha poche nozioni di buddismo, cosa può fare dentro di questo progetto per aiutare? Beh, credo che si possano fare comunque tante cose, nel senso che il progetto si articola in diverse direzioni, no? Al momento c'è il volontario che ad esempio va in carcere e porta le proprie competenze, che non sono per forza di Dharma in senso stretto, perché ad esempio abbiamo anche chi fa lo yoga, per fare un esempio. Un'altra possibilità è quello di corrispondere. Noi abbiamo, anzi promuoviamo e sosteniamo la corrispondenza fra il detenuto e persone esterne, ovviamente con un monitoraggio da parte dell'organizzazione in modo tale che la corrispondenza sia fruttuosa e sia insomma impostata in un certo modo. C'è la possibilità di diventare tutor per corrispondenza, quindi alcuni dei nostri detenuti che chiedono esplicitamente, non che non siamo noi a proporlo, ma che chiedono di poter ad esempio studiare come il Basic Program o altri formati che l'Istituto La Mazzon K ci fornisce, c'è la possibilità di seguirli, quindi questa è una terza possibilità. Sicuramente se ne creeranno di nuovo in futuro, si possono ad esempio donare libri, si può ad esempio fare donazioni, quello è scontato, ma sicuramente in futuro con l'ampliazione anche del progetto si creeranno anche nuove figure delle quali avremo bisogno anche come riferimento in istituto, anche come riferimento per altri volontari, quindi sicuramente anche una persona che sostiene, poi bisogna vedere, di non avere abbastanza nozioni di Dharma può trovare il suo spazio e sicuramente troviamo poi lo spazio necessario, perché è importante aiutare, poi il modo in cui uno aiuta lo si trova, quindi grazie. Sì, ti porto un altro esempio, anche tu lo conosci, gli ultimi 5 incontri nella sezione maschile che ho fatto l'anno scorso sono stati gestiti da un esperto in computer che ha insegnato ai detenuti che ne avevano voglia, che l'avevano richiesto, a usare un computer. E questo nell'ambito del nostro progetto, in cui evidentemente il Dharma non entrava assolutamente. Beh, dei 25 incontri, 20 li abbiamo tenuti, diciamo, in senso tradizionale, non impostati sul buddismo, come dicevo prima, ma impostati sul progresso mentale, di mente e di cuore. Gli ultimi 5 sono stati invece tenuti sotto un profilo molto pratico. I detenuti avevano espresso questo desiderio e uno dei nostri collaboratori era un esperto in computer e ha prestato le sue competenze. Dipende da quello che uno è in grado di offrire. L'importante è che sia utile, o che si pensi che sia utile per i partecipanti, per i destinatari. Grazie. Anche perché facendo poi un breve resoconto di quella che è stata l'attività durante quest'anno, noi abbiamo fatto davvero tante cose, alcune inerenti al Dharma, altre che magari erano meno inerenti al Dharma, ma comunque sia abbiamo cercato di raggiungere quanto più persone possibile. Quante più persone a seconda anche delle loro disposizioni, dei loro interessi. Vabbè, io stesso lo dico sempre, ho organizzato 4 tornei di calcetto insieme alla squadra dei ragazzi tibetani, li abbiamo persi tutti rigorosamente, anche perché lei mette insieme delle squadre che sono formidabili, quindi era impossibile fare qualsiasi cosa. Però, ad esempio, appunto abbiamo avuto, al di là dei tornei di calcetto, al di là della legatoria, al di là di situazioni così, abbiamo creato momenti anche di incontro. Ho invitato Chiara Frugoni, che è una scrittrice di fama internazionale per quanto riguarda Francesco d'Assisi. Probabilmente organizzeremo Dario Fo, probabilmente, e qui invece rientriamo in un ambito di Dharma, avremo la possibilità di organizzare il primo mandala in carcere, e anche questa sarà una grande cosa grazie al tour dei monaci dell'FMT, e questa sarà la prima volta in Italia che accadrà. Probabilmente creeremo nuove occasioni, abbiamo invitato numerosi monaci a parlare nelle carceri, è successo a Massa, è successo a Milano, è successo a Palermo da poco, siamo diventati per la prima volta tappa di un lama itinerante dell'FMT, Geshe Sonam, che fra le altre cose è tutore giovane di Gomo Tulku. Quindi abbiamo creato momenti di incontro anche con personaggi della cultura, organizzeremo, e siamo un'altra associazione, Roberto Vecchioni a Bollate, quindi si cerca davvero di fare tante cose affinché le persone possano essere davvero beneficiate anche con cose che apparentemente magari non c'entrano con noi. Abbiamo organizzato raccolte di indumenti, di generi di prima necessità, quindi l'approccio all'altro, pensiamo alle 84.000 porte di Dharma, no? Davvero noi cerchiamo di passare attraverso, basta 100 ed è già moltissimo, però quello che si può fare, come diceva Franco, è davvero tanto. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di organizzare numerosi eventi e speriamo di poterne organizzare altrettanti nei prossimi anni, perché l'importante è iniziare a far cultura, iniziare a farci conoscere, nel senso che iniziare a far comprendere che c'è una realtà diversa di intendere il periodo dell'attenzione e di aiutare le persone ad aiutarsi, come dicevamo prima. Ed è qualcosa che viene fatto per la prima volta, che nel mondo sta già avendo dei risultati incredibili, che potete ad esempio verificare attraverso testi come le emozioni afflittive, no? O le emozioni che fanno guarire, testi che parlano delle ricerche già in corso sulla meditazione, di come viene usata la meditazione in contesti come gli ospedali, le prigioni, generi, insomma, contesti in cui c'è una grande sofferenza. Noi stiamo iniziando anche in Italia, ripeto, c'è Dare Protezione, che è un'associazione meravigliosa, e ci siamo noi che stiamo cercando di fare, davvero di portare del beneficio, quindi vedremo, tanto è stato fatto, tanto è da fare, stiamo iniziando a progettare un aiuto all'ex detenuto, quindi aiutare a sostenere la persona quando esce, iniziare a pensare a fare rete con organizzazioni che già si occupano di inserimento lavorativo, che si occupano di lavoro, perché come ha detto l'autoressa De Ceglie, i due problemi poi sostanziali sono questi, che già sono problemi per la maggior parte delle persone che vivono fuori, figuratevi per una persona che esce da un carcere, come dicevamo prima. Quindi